30 minuti in cronaca di Gigi Donelli. È stata ritrovata vicino a Pesaro la 17enne di origine pakistana rapita dal padre da un centro di accoglienza per minori a Fano. La giovane Almas è in buone condizioni di salute, il padre, a Qatar, 40 anni, è invece stato arrestato. All'origine del rapimento ci sarebbe un matrimonio combinato. Il padre avrebbe voluto costringere la giovane a sposare un connazionale contro la sua volontà. Ancora buonasera da Gigi Donelli, benvenuti dunque a 30 minuti in cronaca. Quella che vi abbiamo sintetizzato, quella che è stata definita una storia a lieto fine, così quella di Almas appunto è stata raccontata. Certo, se così si può dire di una ragazza che ha due genitori in carcere, che abita in una casa famiglia. Ma perché si parla di lieto fine? Perché, come dire, tutto è relativo e questo approccio è legato alla paura, alla preoccupazione che questa vicenda potesse in qualche modo ripercorrere quelle di Ina e di Sana. Sana aveva 18 anni e si era innamorata di Massimo, che ne aveva 31. Lei marocchina, lui italiano, lei musulmana, lui cattolico. Differenze che per loro non erano un ostacolo alla relazione. Non così per il padre di lei, che se già si lamentava per la differenza di età e la diversa religione, non ci ha visto più quando la figlia gli ha detto. Ecco, ricorderete questi casi di cronaca, così, drammatici, omicidi efferati che scuotono anche il dibattito sociale del nostro paese, un paese ovviamente in trasformazione da anni e che su certe tematiche, e naturalmente quando c'è di mezzo forme di violenza così brutale come può essere quella della violenza di un padre sulle figlie, insomma si scuote e riflette. Allora, prima di presentarvi la nostra ospite di oggi, vorrei chiederle quale è la sua reazione alle notizie di cronaca che coinvolgono appunto queste relazioni complesse tra padri di religione musulmana e le loro figlie. Buongiorno a tutti. Sì, no, sicuramente la prima reazione è di forte indignazione e preoccupazione, perché casi come questi non ne vorremmo mai sentire per i nostri giovani, per i giovani in generale, specialmente per le ragazze e per le donne che generalmente sono più oggetto di questo tipo di problemi. Sicuramente siamo contenti, sono contenta per, tra virgolette, lieto fine, come è stato appunto sottolineato, però c'è ancora qualcosa che va definito, che insomma va seguito. Che va seguito. Dunque, Soumaya Abdelkader è una scrittrice, grazie di essere con noi, è italiana, è musulmana, le sue origini ci porterebbero al sud del Mediterraneo, tra la Giordania e la Palestina, ma si può ben dire, credo senza sbagliare, che la sua terra, la sua Heimat, come direbbero i tedeschi, in realtà è più legata a Perugia, al cuore del nostro paese, che è il suo. Sono nata a Perugia, sono cresciuta a Perugia e sono rimasta qui fino ai 20 anni, quindi sono legatissima a questa città che ha accolto la mia famiglia, ha cresciuto me, le mie sorelle e il mio fratello. Quindi per me è sicuramente la mia terra, il mio paese. Poi sì, ho un legame con quella che è anche la mia terra di origine, il territorio, diciamo così, della Giordania e della Palestina, da cui appunto provengono i miei genitori. È un bellissimo paese e quindi non si può che essere innamorati anche del proprio paese di origine. Assolutamente. L'Italia resta il paese che ho scelto, in cui ho scelto di restare, di identificarmi in questo paese, e questo, diciamo così, è la mia strada. Soumaya, italiana anche per scelta, dunque, come ci ha spiegato. Io le chiedo invece di aiutarci a capire una trasformazione che è in atto e di cui spesso noi avvertiamo dei segnali solamente da fatti di cronaca efferati. Allora, chiariamo una serie di punti. Si parla nel servizio e la maggior parte delle diciamo dei racconti giornalistici di una reazione a un tentativo di matrimonio forzato. I matrimoni forzati sono così diffusi, sono un problema reale appunto nelle famiglie musulmane in arrivo in Italia? Allora, la questione dei matrimoni forzati non è una tendenza, non è la maggior parte dei casi che si presentano nelle famiglie musulmane. È tutto, chiariamolo, una questione culturale legata alla cultura del paese di origine e non una questione che viene dall'Islam come religione, che invece vieta assolutamente ogni forma di forzatura o imposizione di un matrimonio. Quindi questo va chiarito, perché spesso invece si sente dire che è l'Islam e sono i musulmani come appunto appartenenti a una certa fede, che impongono e che seguono questa via. Che significa culturale? Significa che ci sono alcune tradizioni di paesi di diversi tra di loro che vedono il matrimonio combinato come la soluzione, come uno strumento sociale per creare le famiglie. Un esempio ne sono i paesi del Pakistan, dell'India, eccetera, che tra l'altro vedono trasversalmente le diverse popolazioni portare avanti questo tipo di matrimonio. Quindi non lo troveremo soltanto nelle famiglie musulmane, ma anche tra gli induisti, tra i cristiani, tra altre forme religiose. Ecco, per affermare delle posizioni di libertà, in particolare per quanto riguarda il ruolo delle donne, anche storicamente, le religioni non sono mai state un veicolo, almeno questo me ne assumo, diciamo, la responsabilità della formazione, di liberazione femminile. Non a caso anche la tradizione europea è fatta di contrasto con diciamo le verità ufficiali e le posizioni ufficiali della religione. In che modo oggi la comunità, appunto, delle italiane musulmane può convivere con diciamo lo schema della religiosità islamica senza metterlo in discussione, senza entrare in conflitto, per affermare allo stesso tempo la propria personalità, secondo lei? Ma in verità, quanto riguarda l'Islam, è proprio il contrario, cioè l'Islam come religione è arrivata fin dal primo momento come affermazione di diritti e di libertà per la donna musulmana. In primis la questione del matrimonio l'aveva liberata dall'imposizione del matrimonio da parte del padre, le ha permesso una libertà di disporre di se stessa, di fare le proprie scelte, di non essere considerata seconda nella scala sociale e così via. Infatti, Sumaya, però non mi dirà che nella realtà sociale non vediamo leader donne nei paesi. Prego. Allora, questo noi stiamo parlando del messaggio originale dell'Islam. Tant'è vero che ha visto poi nella storia tantissime donne che sono state hanno avuto posizioni e ruoli sociali altissimi. Il problema poi è che in alcuni paesi la forma della tradizione culturale del paese ha prevalso su quello che è stato il messaggio dell'Islam come religione, e quindi abbiamo visto derive di alcuni paesi che hanno assolutamente non solo considerato la donna come seconda nella scala sociale, ma proprio nulla. Vediamo un Afghanistan oggi, un'Arabia Saudita e qualche altro paese che vede comunque difficoltà a lasciare libera e disporre di sé le donne. Questo deve essere chiaro, perché c'è continuamente una confusione tra quello che è l'Islam come essenza, come messaggio originale, e quello che sono i musulmani, attenzione, che significa coloro che praticano una religione islamica in modo deviato, deformato, lontano da quel messaggio originale, che invece vedono sovrapporsi tradizioni culturali o addirittura visioni politiche a cui fa comodo far tacere mezza parte della società per poter arrivare ai propri scopi. Far tacere l'altra metà del cielo. Sorelle d'Italia, l'Italia si desta dell'elmo di Scipio, Sicilia. Ecco, questa versione dell'inno di Mameli, che forse ricordate, è una pubblicità, è stata anche al centro di una polemica, ovviamente. Non manca nulla in Italia. Invece, secondo me, è un suono bello l'idea, appunto, delle sorelle d'Italia, non dei fratelli, per una volta. Sumaya, so che lei ha raccontato in un libro che ha scritto anche di una vicenda curiosa sull'inno nazionale che riguarda la sua famiglia. Un canto. Ce lo racconta? Sì, ma allora, per quanto riguarda l'inno cantato così nella versione che abbiamo appena sentito, a me personalmente è piaciuta, insomma, mi ha dato quel qualcosa che ha fatto risvegliare un po' il mio orgoglio di donna italiana, quindi non lo vedrei tanto male. No, però infatti, io sono d'accordo con lei, ma comunque appunto è stato un gioco. Per quanto riguarda sì, questo racconto che riporto poi nel libro, Praticamente è successo che, è una storia però, poi vera, che è capitata a me in primis, le mie figlie e poi le figlie di Sulinda, che è la protagonista del libro, si trovano nell'autobus 56 di via Padova a Milano, e che si mettono a cantare a un certo punto: siamo pronte alla morte, siamo pronte alla morte. Certo, un passaggio dell'Ina di Maria. Esatto, sì, la Sciura Maria si gira e dice: ecco cosa insegnano ai loro figli, la cultura della violenza e della morte. Quindi già immaginava... E i bambini continuano a cantare: siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò, che significa, insomma, che stavano ripetendo l'inno d'Italia, anche perché eravamo in tempi di mondiali e erano fresche di inno d'Italia. Insomma, questo ha portato un po' un imbarazzo generale. Ecco, questi episodi raccontano anche, come lei ha fatto in maniera molto ironica, devo dire, questa distanza che c'è tra l'essere italiano e l'essere musulmano italiano? Sì, diciamo che raccontano sicuramente quello che sta dentro le teste delle persone, ovvero tanta confusione, secondo me. Io non parlerei, ad esempio, di razzismo, come qualcuno invece continuamente prova a rimettere sul tavolo la questione del razzismo. Non c'è razzismo, in Italia in particolar modo. C'è tanta confusione che porta a una forma di intolleranza e di voler fare scelte chiare e, tra virgolette, sicure. Ecco, tra un momento sentiamo insieme gli aggiornamenti per chi è in viaggio. Poi vorrei ripartire proprio da una questione di identità. So che lei è molto attiva anche nelle associazioni, nei gruppi che raccolgono anche una categoria che forse la maggior parte di noi non è evidente, che sono quello appunto dei giovani musulmani italiani. Si parla di 200.000 persone, di cui l'80% nata nel nostro paese. 30 minuti in cronaca. I giovani musulmani in Italia sono 200.000, secondo un dato raccolto anche nell'ambito di un incontro che si è svolto qualche settimana fa a Torino. L'80% di loro è nato nel nostro paese. Ecco, ritorniamo con la nostra ospite, Sumaya Abdelkader, che, lo ricordo, è una scrittrice italiana e musulmana. E le chiedo, insomma, è possibile identificare il giovane musulmano italiano, per quanto queste categorie siano sempre da prendere con le pinze? Si sarà capito che a me le categorie sinceramente non piacciono per nulla. Io parlerei di giovani italiani, punto. Poi che uno sia appartenente alla religione islamica, ebraica o cristiana o buddista, quello che è, non so perché debba essere messo in evidenza. Forse perché per noi è più a volte più palese, più facile palesizzare, ecco, questa appartenenza, però... Forse perché siete storicamente una novità. Relativamente una novità. Relativamente, però come... Beh, però, insomma, storia degli ultimi anni dell'Italia è obiettivamente storia che racconta un cambiamento. Io andrei a vedere un cambiamento a livello globale comunque, e questo viene ripreso poi ovviamente a livello dei singoli stati. Quello che oggi vediamo, ovvero giovani plurali, di differenti origini, di differenti culture, eccetera, non è altro che un riassunto di quello che a livello mondiale già è la situazione. Quindi dei giovani italiani che si esprimono diversamente, che però vogliono, hanno voglia nella loro maggioranza di contribuire alla crescita di questo paese, a essere presenti in questo paese. Soprattutto quelle che dite su di me: chi vuole essere Karkadan? Chi vuole essere Karkadan? Chi vuole essere Karkadan? Chi vuole essere Karkadan? Chi vuole essere, chi vuole essere, chi vuole essere Karkadan? Me l'ho detto tipo da kebab, che non c'entro con la Dogo Gang, che giro fuori dal surf, classico musulmano ma traditore perché mangio italiano. Classico musulmano ma traditore perché mangio italiano. Questo è Karkadan, una delle voci più attuali della musica. Lui è tunisino, canta, vive da anni a Milano, canta nella sua lingua, canta in francese, canta in italiano. Ecco, e qui come dire, in questo brano Karkadan mette insieme tutta una serie di luoghi comuni, di contrasti, di aspettative. Quanto sono forti e quali sono i luoghi comuni più forti che appunto coinvolgono gli italiani di seconda generazione, secondo lei? Devo dire che si parla poco di loro, quindi non c'è un grande stereotipo su di loro. Sicuramente se c'è uno stereotipo è quello dei genitori, che viene ribaltato anche sui figli. Non si considerano ancora pienamente italiani, cioè quando si vede un giovane che si può riconoscere, insomma, si vede che è o dichiara di essere musulmano, subito lo si mette nella categoria musulmani, punto, e lo si riempie di quegli stereotipi e pregiudizi che ci sono nei confronti dei loro genitori, quindi qualcosa di carico, di confuso tra tradizioni, tra avvenimenti attuali, di politica internazionale, eccetera, eccetera. Difficile quindi ancora riconoscerli italiani. Qualche tempo fa è capitato che, per esempio, sono andata a fare il cambio residenza con mio marito. Mio marito, a vederlo, non sembrerebbe una persona che ha origini straniere, perché è chiaro, con gli occhi chiari, eccetera, eccetera. E quando abbiamo chiesto questo cambio, la funzionaria pensava che mio marito fosse italiano che viene a fare il cambio di residenza alla moglie straniera. Invece noi siamo esattamente il contrario, io sono cittadina italiana e lui è cittadino straniero. C'è questa confusione nel riconoscere le persone come italiani, e laddove sono veramente italiani ma hanno origini differenti, gli spiazza una carta d'identità straniera, se proprio questo essere straniero non è visibile. Insomma, c'è ancora da lavorare tantissimo in questo senso. A proposito, le scuole. Le scuole stanno facendo un gran lavoro, perché ci sono grandi insegnanti che purtroppo vengono spesso lasciati soli nel loro lavoro e si devono esprimere con le proprie capacità e forze a far fronte a questa nuova pluralità dei giovani che ci sono nelle scuole. Beh, mi fa piacere che lei cite le scuole, perché condivido sicuramente, come peraltro è inevitabile, il ruolo. Le scuole sono fondamentali e purtroppo poco curate come si deve, ecco. Io punterei tantissimo sulle scuole, nel senso di quella vera, non integrazione, che è una parola che a me non piace, ma interazione e cooperazione tra le persone, per crescere serenamente, per costruire, continuare a costruire questo paese. Ci diceva prima che non è d'accordo nel definire come categoria gli italiani di religione musulmana, eppure voi avete sentito il bisogno di creare un'associazione di giovani musulmani italiani, un'associazione di cui peraltro lei è stata tra le fondatrici. Sono tra i fondatori dell'Associazione dei Giovani Musulmani d'Italia. Ecco, perché sentite l'esigenza allora di avere un'associazione di giovani musulmani d'Italia? Certo, perché serviva un punto di riferimento per i giovani musulmani che ancora non hanno e non avevano allora chiara la forma e l'identità propria. Tanti giovani musulmani ancora non si sentono pienamente italiani, un po' perché non si sentono accettati come italiani, perché ancora sentono questa paura del tradire il paese di origine se si riconoscono nell'essere italiani. Quindi un'associazione serviva per indirizzare questa nuova identità dell'italiano musulmano, che non tradisce la propria religione, che non tradisce il proprio paese di origine, ma che sceglie di far parte di un paese, che sceglie di far parte di condividere i valori, i principi di un paese, che sicuramente non contrastano con i valori e i principi della fede islamica. Islam e laicità dello Stato sono compatibili per un giovane musulmano italiano? Ma all'interno della nostra comunità la questione è molto chiara. Tutto ciò che nasce dalla violenza e dallo scontro con le popolazioni, con le religioni, non fa parte dell'Islam. Noi non vogliamo dare questa declinazione alla nostra fede, al nostro essere musulmani. Lo ripudiamo fortemente e incitiamo e indirizziamo ed educhiamo i giovani, la nostra comunità, a essere dei credenti che rispettano le regole del paese in cui si trovano e vivono serenamente con gli altri, per costruire un paese condiviso da tutti nei valori e nei principi, per star bene insieme. Quello che ci dimentichiamo spesso nelle nostre relazioni è il bene comune, cioè bisogna andare oltre il io voglio star bene per conto mio, ma noi tutti dobbiamo star bene insieme. Ecco, vi considerate in qualche modo delle mosche bianche, o potrebbe dire di essere rappresentativa della maggioranza dei giovani musulmani presenti in questo paese? Penso di poter avere la presunzione di dire che siamo un pensiero maggioritario, anche perché si vede dall'atteggiamento, dal comportamento della maggioranza dei ragazzi che sono appartenenti alla fede musulmana, insomma, sono ragazzi inseriti, sono ragazzi ben disposti, anzi che hanno voglia di emergere nella società e di puntare molto in alto. È alta la percentuale di ragazzi che si iscrive all'università e fa facoltà impegnative come giurisprudenza, come medicina, come ingegneria, insomma vogliono essere persone colte, capaci di rispondere, fronteggiare a questa nuova società che li vede anche protagonisti. In Svizzera i cittadini di seconda generazione costituiscono movimenti politici e partiti. In Italia non accade, perché secondo lei? Sì, no, per ora in Italia non si è creato nulla di... Beh, a parte che lo scenario politico italiano è abbastanza confuso, certo, e complicato, quindi è anche difficile far emergere qualcosa di nuovo. E comunque in generale la scelta è quella di non avere un'espressione religiosa politica, quella di far parte di ciò che c'è o ciò che emerge della politica laica italiana e impegnarsi in quello. I nostri giovani sono sia di destra che di sinistra che di centro, si trovano un po' ovunque e sono impegnati anche in partiti politici di diversi colori. Ecco, il voto, c'è un problema legato, lei vota? Da adesso sì, perché a dicembre ho acquisito la cittadinanza italiana e adesso potrò votare. Ecco, a dicembre ha acquisito la cittadinanza italiana, quanto è stato, ci ha raccontato per tutti questi minuti che lei è italiana, che Perugia è la sua terra, quanto è stato complesso arrivare a questo diritto? 31 lunghi anni, perché per un disguido burocratico non ho potuto avere la cittadinanza italiana al 18° anno di età, come previsto dalla legge, e quindi le cose si sono protratte fino a poche settimane fa, quindi dopo 31 anni dalla mia nascita sono diventata a tutti gli effetti cittadina italiana. Ecco, quanto spesso accadono questi disguidi burocratici di durata pluriennale? Parecchio. Abbiamo diverse centinaia di casi di questo tipo, anche forse di più. Purtroppo basta poco per perdere questo diritto automatico, cioè automatico, anzi non è proprio automatico, ma è una richiesta che va fatta al 18° anno di età. Quindi non è neanche un diritto concesso automaticamente, ma va richiesto. Ce ne sono purtroppo tanti. Non c'è ancora una buona legge sulla cittadinanza in Italia. Grazie, io ringrazio Soumaya Abdelkader di essere stata con noi. Lo ricordo, è una scrittrice che anche appunto attraverso i suoi racconti aiuta a capire insomma questa Italia che cambia anche al di là di quello che i fatti di cronaca mettono in primo piano, in una realtà che è molto più complessa, molto più affascinante, molte volte anche molto più serena di quanto non si voglia descrivere. Grazie a voi, l'appuntamento con 30 minuti in cronaca come sempre per sabato prossimo, www.radio24.it per sentire questa, risentire tutte le trasmissioni di Radio 24.